Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, l'ultima della settimana, e vediamo subito i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo dalla riforma delle professioni, ancora molti commenti a caldo dopo l'incontro di ieri e le prime linee guida che sono uscite dall'incontro e anche sulle intenzioni del governo. C'è una notizia però che vi voglio dare praticamente in diretta. Secondo il New York Times, la SEC, che è la Consob americana, l'autorità di controllo sui mercati finanziari in America, avrebbe accusato Goldman Sachs di frode per aver creato e venduto prodotti legati ai subprime, ai mutui ormai celebri, in cui sostanzialmente mutui concessi ad alto rischio, perché difficilmente erano sotto il livello di prime, quindi difficilmente, o con un alto rischio di non essere poi pagati e ripagati. La notizia sta avendo un impatto anche sui titoli. Goldman Sachs infatti sta perdendo in borsa oltre il 5% dopo le accuse appunto della SEC. Tra l'altro, sempre la banca americana Goldman Sachs è finita ieri nel mirino del governo nell'ambito dell'indagine per insider trading riguardanti il caso Galleon, un hedge fund fondato da un miliardario cingalese. E le autorità stanno indagando per accertare se vi siano state fughe di informazioni durante l'apice della crisi, speculazione sulla crisi. Ma insomma, questa è una patata ben più bollente, perché nel momento in cui vedremo se poi la SEC confermerà, ma insomma il New York Times lo pubblica in maniera abbastanza convinta, vorrebbe dire una bella grana per Goldman Sachs, una delle prime banche a tornare inutile da un lato, e anche distribuire super bonus ai suoi manager. Le borse e l'andamento delle banche americane sta penalizzando anche le borse europee. Devo dire, oggi i realizzi sulle banche c'erano in Italia fin da inizio seduta, si fanno più pressanti adesso, ma in generale per un clima di incertezza, e poi ne parleremo perché abbiamo anche un'intervista all'uomo degli hedge fund, George Soros, ieri a Venezia. Accusato di aver speculato a man bassa sull'uscita della Grecia dall'euro, di aver scommesso su un crollo dell'euro nei confronti del dollaro. Insomma, ci ha raccontato un bel po' di cose, e non capita spesso di avere l'uomo che riuscì a cacciare la lira prima e poi la sterlina dopo nel 92 dal serpente monetario europeo, dal sistema monetario europeo. Ebbene, alcune previsioni sulla crisi ce le ha date. Devo dire che i titoli bancari perdono adesso il 3% nel caso di Unicredit, il 3,20% nel caso di Mediobanca, poi c'è Bancari Assicurativi Generali meno 2,70%, Popolare Milano meno 2,5%, ancora Intesa e Ubibanca perdono il 2,2%, Fondiaria il 2,3%, Unipol il 2%, Monte dei Paschi il 1,3%. Sono tutti negativi i titoli. L'indice perde quasi il 2%, l'1,80% per la precisione. Si salvano Buzzi Unicem più 1,7%, Campari più 1,1%, Exor più 0,4% e Mediaset più 0,2%. Negativi anche i titoli legati al petrolio, Eni all'energia meno 1,3%, A2A meno 1,2%, Enel perde un po' di meno, meno 0,70%. L'euro a quota 1,3522, e chiaramente avete letto sui giornali in questi giorni i timori legati al fatto che il testimone alquanto sgradito di paese a rischio passi dalla Grecia al Portogallo e poi dal Portogallo alla Spagna, e questo pesa anche sui mercati. Va detto che Milano è la peggiore, e adesso perde il 2, esatto, perché pesa molto da noi il settore bancario. Parigi infatti perde la metà, meno 1%, Francoforte meno 1%, Hong Kong ha perso questa mattina l'1,3%, Londra sta perdendo lo 0,94%, l'America sta perdendo mezzo punto percentuale. Partiremo quindi dagli ordini, dalla riforma delle 20 categorie di ordini professionali, con questa richiesta di reintrodurre le tariffe minime. Già Oscar Giannino la mattina, no, in punto, ha avuto i rappresentanti, per esempio, degli ordini degli avvocati. Noi oggi parleremo con chi rappresenta i commercialisti. Devo dire che avvocati e commercialisti sono i due ordini, tra gli ordini più numerosi quanto a iscritti nel paese, e sarà anche l'occasione per parlare di riforma fiscale, alcune delle proposte avanzate anche su Sole 24 Ore, di cui già abbiamo discusso mercoledì. Poi, per quello che riguarda invece la borsa, l'appuntamento come sempre alla chiusura dei mercati, avremo poi due approfondimenti su due settori. Infatti abbiamo parlato del settore del legno, del mobile arredo mercoledì. Oggi sarà la volta del Cosmoprof che apre i battenti a Bologna, da un lato. Dall'altro ci occuperemo anche delle centrali d'acquisto, un modo in cui le imprese cercano di risparmiare andando a fare, lo dico in maniera molto molto brutale, acquisti di gruppo, quindi sia a monte della catena che a valle, cercando di ottenere prezzi migliori. Sì, di solito se gli acquisti vengono fatti in maniera aggregata si riescono ad avere anche acquisti migliori, ed è un modo per... è uno dei modi per superare anche la crisi. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo come sempre dal petrolio, perché oggi l'indice del petrolio è in netto calo a New York, a $84 al barile, meno 1,7%. Di petrolio ha parlato oggi da Venezia, a margine dell'inaugurazione dell'International Center for Climate Governance all'isola di San Giorgio, Venezia, il numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni, che ha detto: il petrolio alto è sempre stato un fattore che spegne la ripresa. Dobbiamo augurarci che non superi i livelli attuali. Ho dimenticato il numero per i vostri sms, 349-238-6666. Andiamo avanti, sempre in tema di petrolio e sempre per quello che riguarda le dichiarazioni rese oggi dal numero uno dell'ENI, Paolo Scaroni. La quota di EDF, quindi Electricité de France, nel gasdotto South Stream, ha precisato Scaroni, sarà tra il 10 e il 20%. A domanda su chi cederà una quota tra Eni e Gazprom, che sono i due soggetti principali del gasdotto South Stream, Scaroni ha detto: non lo so, lo chiariremo in futuro. Ci mancava anche la nuvola di cenere dovuta all'eruzione del vulcano in Islanda, nuvola che, come i nostri GR vi ricordavano, si sta spostando, ahimè, verso il nord Italia. Auguri domani per chi deve volare dal nord soprattutto. Dicevo, ci mancava solo questo per le compagniere, che appena appena avevano ricominciato a rialzare la testa nel 2010. Dunque, le perdite fino ad adesso stimate sono tra i 10 e i 25 milioni di euro al giorno. Praticamente per Air France KLM la paralisi totale del traffico costa al giorno 30 milioni di euro, la British Airways costa 25 milioni di euro, a Lufthansa meno di 10 milioni di euro. Questi secondo i primi dati diffusi dagli analisti, perché le grandi compagnie aeree coinvolte, appunto Air France, Lufthansa e British, non stanno svelando le perdite causate dall'annullamento dei voli, appunto provocato dalla cenere. Ancora, praticamente si stima una perdita di ricavi di circa $1 miliardo per le compagnie aeree nel finale. Questa stima l'ha fatta Derek Salvin, che è il direttore generale del Centro dell'Aviazione per l'area Asia-Pacifico, specializzato in analisi settore. Dice che alla fine i mancati ricavi dovrebbero arrivare a $1 miliardo. Rispetto alle cifre che abbiamo appena letto, è molto alta come stima, però vedremo. Economia internazionale: scende l'indice di fiducia in America misurato dal Michigan. Dicevamo dell'accusa della Consob americana, che si chiama SEC, a Goldman Sachs, accusa di frode per aver creato e venduto prodotti legati ai subprime. È un tema delicatissimo, perché potrebbe creare anche un precedente. Da quello che ci risulta, non fu infatti solo Goldman Sachs a creare e vendere prodotti legati ai subprime. Vedremo. Il titolo perde oltre il 5% in borsa, mentre Bank of America altra grande banca d'affari americana, torna all'utile dopo due trimestri di fine in rosso. Primi tre mesi del 2010, utile netto a 3 miliardi e 180 milioni di dollari con un dividendo di 28 centesimi di dollaro per azione. È un risultato che supera comunque la media degli analisti, che si aspettavano un utile di quasi un terzo, a 10 centesimi di dollari. Allora, poi ne parleremo nella seconda ora, ma insomma alcune dichiarazioni arrivano da Bruxelles sulla vicenda greca soprattutto. Oggi non sono previste nuove decisioni nell'Eurogruppo, infatti non ne sono arrivate, e anche stasera da quello che hanno dichiarato il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, ma non solo, anche il ministro dell'economia spagnolo Ena Salgado, non sono previste riunioni nel vertice di questa sera dell'Eurogruppo, di questa mattina dell'Eurogruppo. E in effetti, a parte una dichiarazione di Papandreou, che è il premier greco, che ha detto il Fondo Monetario già controlla le nostre decisioni, non si registrano altre dichiarazioni significative. L'inflazione torna a alzare la testa in tutta Europa, non solo in Italia. In Italia vi è una conferma, marzo più 1,4%, quindi ha confermato l'Istat oggi la stima preliminare di cui già ci occupammo quando uscì. Siamo ai massimi dal febbraio del 2009 quanto a inflazione, allora infatti si attestò all'1,6%, è in salita all'1,4% appunto dall'1,2% di febbraio. Cala poche voci calano, aumentano soprattutto le voci legate ai costi dell'energia, ma non solo, perché il prezzo dei prodotti acquistati con maggior frequenza, questo indice che l'Istat un po' in ritardo ha sviluppato, tra cui gli alimentari, le bevande, il carburante, giornali e affitti, è salito del 2,2% rispetto a marzo 2009, quindi ben più dell'indice generale dell'inflazione. Ancora sempre l'Istat fa sapere che a marzo la benzina ha fatto un più 17% rispetto a marzo 2009, il gasolio un più 16%. L'inflazione europea balza invece all'1,4%, quindi si allinea alla media italiana. E allora, prima di passare al tema di apertura e quindi la riforma degli albi professionali, ancora due notizie. Allora, c'è una notizia che farà arrabbiare qualcuno: i voli di lusso per la trasferta a Strasburgo. Un bel numero di eurodeputati italiani, per raggiungere ogni mese il Parlamento europeo, utilizza un jet taxi privato. Ora, per quello che io so, la frequenza degli appuntamenti a Bruxelles non è tale da richiedere mezzi di emergenza, ma insomma il jet taxi privato parte da Ciampino, arriva a Strasburgo e ritorno alla modica cifra di 1.400 euro. E il bello è che fino all'anno scorso erano gettonatissimi per gli eurodeputati italiani gli aerei di linea e i voli low cost. Qualcosa sono cambiate le regole per il pagamento delle spese di viaggio. Infatti prima il rimborso era forfettario, circa 1.000 euro indipendentemente dal biglietto acquistato, e quindi era vantaggioso comprare un biglietto a basso costo. Con il nuovo regolamento l'indennizzo corrisponde al prezzo del biglietto acquistato, ed ecco perché probabilmente gli eurodeputati italiani preferiscono il jet privato ai voli low cost. Va bene, è uscito anche il dato sulle immatricolazioni auto, più 10% in Europa, però Fiat fa un meno 2,6% in Europa delle auto, e Fiat fa sapere di essere stata penalizzata dal crollo del mercato tedesco dalle auto. Passiamo adesso al primo tema, l'incontro ieri tra il Ministro della Giustizia Angelino Alfano e le 20 categorie di professionisti sotto il diretto controllo del Ministero, alcuni accordi che, secondo i critici, smontano le famose lenzuolate delle liberalizzazioni decise dall'allora ministro Bersani. L'accordo raggiunto ieri infatti è sul ripristino delle tariffe minime, quelle soppresse con le liberalizzazioni di Bersani, l'obbligatorietà della formazione continua, e poi i vari presidenti degli ordini si sono impegnati a introdurre maggiori garanzie di trasparenza ed efficienza della giustizia disciplinare. E poi forme di modifica saranno lo studio della disciplina del tirocinio e dell'esame di accesso agli albi professionali. Gli iscritti sono complessivamente quasi 2 milioni in Italia, in 24 ordini professionali, tra cui c'è anche quello dei giornalisti, una categoria che garantisce il 12,5% del PIL. E non vorrei mettere assieme due cose, però dopo l'Inghilterra, l'Italia è il paese dove è più forte la correlazione e quindi il legame tra il reddito del padre e quello del figlio e il lavoro del padre e quello del figlio. Non c'entrano niente infatti gli ordini professionali, ma insomma il 44% di architetti e figli di architetti, il 42% di avvocati e notai e figli di avvocati e notai, il 40% di farmacisti e figlio di farmacista. Presidente Claudio Siciliotti, che è presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quindi anche gli ex ragionieri, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, voi tra l'altro siete riuniti a Venezia per il convegno di due giorni dei commercialisti e degli esperti contabili europei, quindi immagino che toccherete anche temi più alti rispetto alle vicende. Guardare al futuro. Ecco, voi guardate al futuro, noi purtroppo siamo legati non al presente, alla cronaca quotidiana, peggio ancora. Però voi avete 110.000 iscritti, 142 ordini territoriali, 30.000 giovani praticanti. Il 30% sono donne, circa il 50% i professionisti sotto i 45 anni. So che non è un tema che vi tocca direttamente, ma siccome ieri l'accordo c'è stato soprattutto sull'abolizione delle tariffe minime, vorrei capire che ne pensa, perché qua abbiamo letto un po' di tutto. C'è un'indagine di Confprofessioni, interpellati 600 professionisti, il 70% era per la reintroduzione delle tariffe minime. Lei come la vede il tema delle tariffe minime? È una cosa da retaggio medievale? Ma cerchiamo anche di impostare il ragionamento. La ringrazio per avermi dato questa opportunità. Qui non si tratta di smontare lenzuolate, si tratta di costruire per il futuro di questo paese. E posso anche dire che il tema delle tariffe non è centrale nella riforma delle professioni, è uno degli aspetti e a mio giudizio non il più importante. Quindi non impicchiamoci sul discorso delle tariffe perché non è significativo. Per quanto riguarda la mia opinione sul tema, io credo che le tariffe minime e le tariffe ci debbano essere perché sono utili al mercato, sono utili ai clienti e aiutano soprattutto i giovani. Che il fatto che debbano essere vincolanti mi vede piuttosto freddo, nei nostri codici deontologici non lo sono da circa 10 anni, non lo sono più, e abbiamo anche scritto che la deroga ai minimi tariffari non autorizza ad abbassare il livello della prestazione. Siamo pienamente consapevoli che ci sono più mercati anche all'interno del nostro paese e molto spesso sono proprio i giovani che non riescono a imporre neppure le tariffe minime, quindi renderle vincolanti significherebbe aggiungere a questi ragazzi, oltre al danno, la beffa, non solo a non riuscire a applicarle ma pure a essere sanzionati perché non le applicano. Quindi secondo me ci devono essere, concludendo, ma non devono essere elemento vincolante. Ma mi permetta di dire, non è stato forse questo l'elemento determinante dell'incontro che si è tenuto ieri, perché secondo me questa riforma delle professioni, che io definisco una sorta di Salerno-Reggio Calabria, cioè un cantiere aperto da ormai 20 anni che non vede mai la conclusione, ma forse se non vede la conclusione ci sono delle motivazioni, è che si parte con dei presupposti di riforma che non appartengono alla realtà del nostro paese. Se lei va a vedere tutti i progetti di riforma, sono basati sull'obiettivo di allargare i mercati, eliminare lacci e lacciuoli e favorire l'accesso ai giovani. Ma se i numeri sono quelli che ha appena ricordato, 110.000, oltre la metà sono giovani, ma di che cosa stiamo parlando? Io le parlo da Venezia Fè, dove gli amici francesi con cui ho appena parlato fino a un attimo fa sono un quinto numericamente di quanto siamo noi. Abbiamo forse bisogno di allargare ancora di più? Io credo proprio di no. Non è questo l'obiettivo della riforma. L'obiettivo della riforma è la qualità, della prestazione professionale, come garantire la qualità, non come garantire l'allargamento dei mercati e l'accesso dei giovani, i mercati che sono più allargati rispetto a quelli degli altri paesi europei e contengono più giovani dei paesi europei. Allora noi abbiamo chiesto, e mi pare che questa volta si vada o si possa andare nella direzione giusta, prima di tutto chiarezza, che cos'è una professione? E allora mi dispiace dirlo, lo dico, ma sono lieto che il ministro abbia ripreso quello che noi diciamo da tempo. Non c'è che una definizione antica e autorevole, quella che ci dà l'articolo 33 della Costituzione, che ci ricorda che è prescritto un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. E allora facciamo chiarezza, se hai fatto un esame di Stato sei un professionista, se non l'hai fatto il mercato è libero, ti puoi spendere le tue prestazioni, sei un lavoratore autonomo e vendi prestazioni di natura intellettuale, ma finiamola di dirlo, non sei un professionista, allora, che non vuol dire nulla, può darsi allora, che sei molto più intelligente di me, ma non sei un professionista. Allora, no, allora un attimo, Siciliotti, un passo per volta, non vorrei giocare tutto sulle tariffe minime, ma è un tema molto delicato, perché poi oltre alle dichiarazioni di intenti bisogna anche metterle in pratica. Quanto alla definizione di professione, meno male che oltre antica ha aggiunto anche autorevole, perché se era solo antica c'è una professione che è la più antica del mondo, ma non penso che il riferimento, il riferimento non fosse esattamente quello. Non è la nostra, ecco, e lì non c'è un ordine professionale, immagino, e non ci sono neanche le tariffe minime. Però andando sul serio, io le farei sentire cosa ha detto il presidente dell'antitrust Katri Calà sulle tariffe minime. Perché ce l'ho con le tariffe minime? A me non interessa nulla, però se siamo tutti per il libero mercato regolato con le autorità che fanno vigilanza, non come certi mercati finanziari, e allora si decide che quanti devono essere sul mercato, lo decide il mercato stesso. Cioè se siete 100.000 è perché ci saranno molti clienti, se no alcuni farebbero un altro lavoro, come accade per chi ha un negozio, per chi ha un'impresa, per chi fa altre attività, mestieri, chiamateli come volete. La tariffa minima, io sta cosa non la capisco veramente, perché da quello che avevo capito dovrebbe avvantaggiare i giovani, o meglio i giovani più inesperti. Se tu non hai un gran nome, un gran blasone, puoi chiedere una tariffa molto molto più bassa, magari si faceva l'esempio anni fa, lavorerai di più con gli extracomunitari, con delle cause molto minori, avrai dei prezzi bassissimi, ma ne fai tante rispetto all'avvocato blasonato che invece può chiedere tariffe molto più alte. Cioè si tratta di mercato, voglio dire, se uno ha un bar può offrire la tariffa che vuole, se vuole offrire un caffè a un prezzo completamente fuori mercato, nessuno glielo va a comprare. Se abita in un'altra zona, probabilmente adeguerà la sua tariffa. Sentiamo Katri Calà sulle tariffe minime. Per l'antitrust la tariffa minima è come il lupo dentro il pollaio, cioè stiamo parlando di un prezzo concordato assolutamente inaccettabile. Tra l'altro le tariffe professionali sono un labirinto oscuro in cui gli unici che si sanno orientare sono i professionisti. Il cliente di un avvocato, ma cosa capisce di un tariffario legale? Il punto di tariffa tipo, non lo so, fascicolazione, ma che significa pagare diritti di fascicolazione? Che significa pagare diritti di vacazione? Io penso che il cliente voglia sapere quanto gli costa un divorzio, quanto gli costa uno sfratto e in che tempi li può ottenere. Allora su questo ci si mette d'accordo con l'avvocato. Mi garantisci questo sfratto in un anno? Allora ci mettiamo d'accordo per tot di onorario. Senta. È inaccettabile, noi l'antitrust non lo può accettare. È un prezzo concordato, tra l'altro da una categoria non in contraddittorio con l'altra parte. Non è accettabile per noi. Hey! Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga? Un fiorino. Oh, fermi. Scusi, sacco, doganiere. Scusi. Hey! Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... Ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua, è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno, adesso eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Grazie. Ehi! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sono uscendo, no? Un fiorino. Cioè uno entra e esce, sbaglia sempre un fiorino. Siamo due, tre, sì. Ragazzi, arrivederci. Senta. Ehi, chi siete? Ma vaffanculo! Cosa portate? Allora, Siciliotti, abbiamo unito Non ci resta che piangere di Troisi e Benigni con Catricalà, anche per non diciamo, prenderci troppo sul serio. Però delle volte gli ordini professionali ricordano un po' quelli medievali. Lo dico facendo parte anch'io di un ordine di cui sono obbligato a pagare ogni anno la quota, ci mancherebbe. Allora, sulla tariffa minima, Catricalà l'ha sentito? Sì, l'ho sentito. Poi il fiorino... Insomma, ecco, facciamoci una riflessione. Io sono lieto anche di affrontare la riflessione partendo dal fiorino e dal lupo nel pollaio, perché è giusto anche parlarsi in questo modo. Allora, io non ho la sensazione di essere lupo nel pollaio quando le dico, a mio giudizio ci devono essere, ma non devono essere vincolati. Mm-hmm. Potrò essere lupo, ma il pollaio non è più recintato. Mm-hmm. E quindi credo di dare un'informazione di quanto può valere una prestazione rispetto a qualcosa che non è così facilmente quantificabile se non è oggettivato in una tariffa. Poi le sto dicendo che non nego la possibilità di fare un accordo diretto con la parte e non nego la possibilità di derogare da quei minimi che pure vengono indicati. E mi permetta di dire che bene che chi ci ascolta sappia che queste tariffe non vengono fatte dagli ordini, ma dal Ministero. Sì, sì, sì. Quindi non sono io che stabilisco. D'accordo, che comunque una insomma. Vabbè. Io vedo tra l'altro che il presidente del Consiglio Nazionale degli Avvocati, Guido Alpa, che ti ripeto è stato nostro ospite, anche la mattina con Oscar Giannino, dice che c'è stata una campagna informativa di denigrazione sulla riforma dell'avvocatura, ma non le chiederò certo Siciliotti di rispondere a nome degli avvocati. Devo mandare meteo, ho ancora due domande importanti per lei. Una riguarda i giovani, perché tutti parlano dei giovani, poi vorrei sapere quanto, se si riesce a avere delle tariffe minime sul salario dei giovani, non su quello che devo pagare io, ma la tariffa minima del salario dei praticanti, li pagate zero voi, pochissimo gli avvocati, pochissimi notai, insomma facciamo la tariffa minima per i praticanti, è già lì. Ci capiamo, e poi vorrei capire cosa ne pensa della proposta di Provasori e Tabellini su come accertare la ricchezza, che è un tema che mi interessa molto perché ritengo che i commercialisti potrebbero avere un ruolo ancora più attivo nel dare una mano a uscire da questi 100 miliardi di evasione fiscale che connotano l'Italia. Comunque, 349-238-6666 per i vostri sms, qualche minuto e poi di nuovo in diretta per le ultime domande a Claudio Siciliotti. A 7:40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa parte di Focus Economia in cui arriveremo anche alla borsa e poi agli altri temi. Vorrei chiudere sulla riforma delle professioni con il presidente del Consiglio dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili Claudio Siciliotti, a cui riconosco, lo dico anche a chi scrive, un atteggiamento molto moderno e pragmatico sulla riforma degli ordini professionali e anche sul ruolo, Siciliotti, l'abbiamo già avuto ospite altre volte, del commercialista nel combattere l'evasione. Alcuni sorridono, ma attenzione, l'evasione si combatte con il concorso di tutti i soggetti. Però vorrei chiudere sulla riforma degli abili professionali e quant'altro. I giovani, Siciliotti, perché quando io sento alcuni suoi colleghi dire che le tariffe minime, la reintroduzione della tariffa minima avvantaggia i giovani, a parte che non capisco perché da un punto di vista economico, perché se sono giovane posso offrire una tariffa più bassa, ma poi so, perché ce lo scrivono, che negli ordini che ho citato, commercialisti, avvocati, notai, potremmo aggiungere, architetti, i giovani, quando va bene sono sottopagato, un po', voglio dire, mi viene l'orticaria, Siciliotti, si può avere una tariffa minima per i giovani? Faccio un esempio, il praticantato nei giornali è pagato, devo dire anche non poco, come tariffa minima obbligatoria, prego. Il tema dei giovani, lo dico, grazie per gli apprezzamenti che voglio interpretare in maniera, come dire, nel senso che me li devo guadagnare volta per volta, non riguardano il passato, devono riguardare il futuro. Il tema dei giovani ci sta estremamente a cuore. Quando lei parla di praticanti, pensi che noi abbiamo una situazione estremamente differenziata. Al sud, per capirci, ci sono molti più soggetti che si offrono come praticanti, di quanti siano gli studi disposti ad accoglierli. Al nord la situazione è l'esatto contrario. Quindi pensare di introdurre, come dire, un salario minimo per i praticanti uguale per tutta Italia o un principio minimo è estremamente difficile, perché la situazione è molto diversa. Noi abbiamo principi deontologici che ci impongono di valutare la necessità di contribuire attraverso borse di studio ad agevolare e a facilitare il praticantato come risorsa fondamentale per la professione. Stabilirlo normativamente diventa forse qualcosa ancora oggi di troppo difficile per una realtà variegata. Ma vorrei sottolineare una proposta che noi abbiamo fatto, l'abbiamo già depositata e sarà uno dei nostri cavalli di battaglia in questa riforma delle professioni. Noi abbiamo proposto uno strumento di società di lavoro professionale che riteniamo debba essere differenziato dalle società esistenti, quelle che del codice civile tarate sulle società commerciali. Noi pensiamo che il vero valore in una società tra professionisti sia la conoscenza e il capitale intellettuale e non il capitale finanziario, per cui questo schema di società prevede esattamente che gli utili siano ripartiti secondo l'apporto intellettuale dei soci e solo il patrimonio sia diviso con le regole del capitale finanziario. Crediamo che questa sia una concreta proposta per agevolare i giovani, perché oggi i giovani entrano negli studi e non hanno che da portare le loro conoscenze, che sono molto, ma non vengono valorizzate in uno schema in cui si possono sentire rispondere: ma io qua possiedo tutto, tu quanto metti? Se metti l'1% di questo capitale, l'1% prendi. No, prenderai l'1% del patrimonio quando liquidiamo la società professionale, sì. Ma se il tuo contributo è più elevato, come lo è senz'altro, dovrà essere retribuito con una quota, sì, d'utili pari a questo. Credo che questa sia una proposta, vabbè, moderna, e questa sia una proposta che va incontro alle aspettative dei Ok, tutti. Vedremo se passerà. Auguri di cuore, Siciliotti, perché se poi invece i colleghi più anziani dei giovani scrivono quello che leggo in alcuni casi qui al 349 238-6666, ma i praticanti sono pagati con l'apprendimento, già essere formati alla loro paga, auguri ai praticanti, auguri anche a chi vuole fare una riforma, perché insomma è una, diciamo, una visione parziale, è una visione lungimirante parziale. Vabbè, va bene, sto zitto oggi, dai. Una battuta me la deve fare sulla proposta di Provasoli Tabellini sul Sole 24 Ore del 14 aprile, che la spiego in una battuta. Diceva: attenzione, per combattere questi 100 miliardi di evasione stimata basterebbe andare a vedere quello che è la dichiarazione dei redditi e confrontarla con l'aumento del valore del patrimonio, perché, anche perché con la digitalizzazione, no? E quindi con l'informatizzazione digitale è facile e tecnicamente più agevole accertare un patrimonio che un reddito. Allora uno va a vedere come si muove il patrimonio su alcuni anni e se scopre che il mio patrimonio, non so, era 100 5 anni fa e adesso è di 150, ma io dichiaro ogni anno 5, capisce che qualcosa non va. La convince o no? Mi convince assolutamente, e posso dirle che noi abbiamo fatto da tempo questo tipo di proposte. Lei lo sa perché l'abbiamo fatto anche dai microfoni di questa emittente, abbiamo parlato più volte della necessità non di rispolverare l'attuale redditometro, ma di insistere su un nuovo redditometro, perché solo dal confronto tra la ricchezza spesa e la ricchezza guadagnata si può avere quella giustificazione di quel gap che, se non è giustificabile, è quella quota di evasione che non ci possiamo permettere. Lei pensi oggi, lo sa benissimo, ma lo ascoltino chi ci ascolta in questo momento, noi abbiamo entrate che sono da 10 anni costantemente inferiori alle uscite. Il differenziale, ci dicono i conti di quest'anno, in termini non facili da comprendere, si chiama indebitamento netto, ma in realtà, diciamo, il deficit annuale ci segna entrate per il 2009 per 720 miliardi e uscite per 800. Un differenziale negativo di 80, 20 scudi, capisce? Di che cosa stiamo discutendo? Cioè, se stiamo discutendo di queste cose, è chiaro che ci si deve, sì, muovere in due direzioni: recuperare l'evasione da un lato e recuperare efficienza. Oh, ma insomma, lei già ce lo disse una volta, però in maniera ancora più chiara ce lo dice adesso, che lei è d'accordo. Questo lo dico a chi dice: ma come chiedere ai commercialisti di aiutare a combattere l'evasione, come chiedere diciamo Alibaba di come. Allora, un attimo, scusate, perché ho due o tre problemini in questo momento, oltre ai miei personali. Goldman Sachs sta prendendo il 12,5% in borsa, sta crollando in borsa dopo l'inchiesta della SEC. Le borse sono al minimo, io devo adesso concludere questo approfondimento. Dico però, rispondendo agli ascoltatori, che invece non è la prima volta che lo fa, ma l'avete appena sentito, da chi rappresenta i commercialisti arriva una proposta, anzi una condivisione di una proposta in cui si vada a guardare meno al redditometro, meno agli studi di settore e più al patrimonio, andando a verificare come si muove il patrimonio di un individuo nel corso degli anni rispetto ai redditi dichiarati, che è una misura che si fa in un attimo. E invitiamo appunto anche l'Agenzia delle Entrate a pensarci seriamente. Devo lasciare la linea alla viabilità. Ringrazio Claudio Siciliotti, presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili. In bocca al lupo ai giovani, soprattutto Siciliotti. E poi traffico, poi il crollo di Goldman Sachs in borsa, questa inchiesta della SEC e gli altri temi di questa giornata. 349-238-6666 per i vostri SMS. Allora, sta succedendo di tutto in America, meno 12,5%, crolla Goldman Sachs, uno dei giganti delle banche d'affari americane, dopo la notizia che vi abbiamo dato in apertura dell'indagine della SEC, cioè della Consob americana, che ha accusato di frode, adesso vado a riprendere l'agenzia perché era veramente stringata, di frode Goldman Sachs, dicendo... sì, che ha creato e venduto prodotti legati ai subprime. Il problema è che, come già anticipavamo, questo può rappresentare un precedente. Non a caso stanno crollando anche Bank of America e Citigroup, che perdono il 5%, e Morgan Stanley pure perde il 5%, ma le borse anche in Europa, i titoli bancari anche in Europa, Deutsche Bank perde il 7% a Francoforte. Appunto, la vendita di prodotti finanziari garantiti dai mutui subprime. L'inchiesta sui CDO che cartolarizzano crediti come mutui ad alto rischio rischia di avere contraccolpi infatti anche su altre banche. Aiuto se si apre questo fronte, perché quello era il trucchetto più classico, lo spiego a tutti, ed è stata la base della bolla che poi ha portato questa crisi finanziaria. Cioè la banca prestava i soldi per comprarsi una casa e faceva un mutuo, erogava un mutuo subprime a gente che probabilmente non ce l'avrebbe mai fatta a ripagarli, anche perché spesso il mutuo valeva più dello stipendio. Siccome il rischio era altissimo, cosa faceva di questo rischio? Lo impacchettava a pezzetti, poniamo che fosse un rischio di $100,000, lo impacchettava a pezzetti da 10,000 e lo rivendeva su un mercato in cui qualcun altro andava a comprarlo speculando su a quanto poi l'avrebbe rivenduto. Questa catena ha generato poi un valore che è pari al PIL mondiale dei CDS, per esempio del credit default swap, cioè andare a speculare su quanto vale il rischio che uno salti per aria e assicurarsi sul rischio che uno salti per aria, come un credit default swaps. Se partono le inchieste su questo fronte, non so quante banche potrebbero esserne escluse. Allora, dopo smontiamo un po' il programma in diretta. Avevo annunciato un approfondimento sul Cosmoprof, un approfondimento sulle centrali di acquisti, li facciamo lunedì. Chiedo scusa agli ospiti previsti, perché adesso ci colleghiamo con la borsa e poi ci colleghiamo con l'America per capire meglio cosa sta capitando negli Stati Uniti. Eleonora Micheli, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti, vorrei aggiungere subito rispetto a quello che hai detto tu, che infatti secondo la France Press, quindi per adesso si tratta di indiscrezioni, ma la SEC starebbe valutando di aprire appunto cause anche contro altri istituti di credito. Eh beh, certo, insomma, adesso io non ci capisco molto, ma... se tu accusi Goldman Sachs di aver frodato perché hai venduto dei prodotti finanziari legati a dei mutui ad alto rischio, lo facevano tutti e quindi ti toccherà accusare anche gli altri. Vediamo, a meno che non ci sia un reato specifico in Goldman Sachs. Vediamo di capire poi cosa sta succedendo. Ripeto, meno 12,5% Goldman Sachs a Wall Street, meno 5% le altre banche d'affari americane, Morgan Stanley, Citigroup e Bank of America, meno 7% Deutsche Bank, e meno male che la borsa da noi ha chiuso sui minimi, meno 2,2% Piazza Affari, meno 1,80%, comunque ha perso un punto percentuale in mezz'ora Francoforte, meno 2% anche Parigi, meno 1,4% Londra, meno 1,12% in America, penalizzate le banche, ma va da sé, anche se le nostre di questi prodotti dovrebbero avere molto pochi, perlomeno in Italia. Unicredit meno 3,80, Intesa meno 3%, Banco Popolare meno 3,60%, Mediobanca meno 3,75%, Generali meno 2,90% e ancora Popolare di Milano meno 3%. Comunque una bella scoppola anche per le banche italiane. Ubibanca meno 2,2%, Monte dei Paschi meno 1,7%. E dire che ci preparavamo a un simpatico venerdì di nubi e di ceneri, però proveniente dall'Islanda. Eleonora, lasciamo stare le banche per un secondo perché poi ci colleghiamo con l'America. Gli altri titoli e gli altri temi: Buzzi Unicem bene più 1,6, Campari più 1,12 bene, effetto spritz più 0,24 Parmalat, allora negativa Prismian, la peggiore meno 4,45, che è successo? Esatto, ieri c'è stata l'assemblea dei soci e l'amministratore delegato Valerio Battista ha dichiarato dinanzi appunto agli azionisti che nel primo trimestre la società ha registrato un calo dei volumi e quindi questo ha dato il là sin da questa mattina alle vendite sul titolo. Ancora, oltre ai titoli bancari, Tenaris male, meno 3,21% dopo le dichiarazioni del numero uno Rocca, no? Sì, esatto, in questi giorni la società ha fatto un roadshow negli Stati Uniti, i vertici dell'azienda hanno incontrato la comunità finanziaria di oltreoceano, ma nel corso dell'incontro è emerso che Paolo Rocca, l'amministratore delegato del gruppo, ha indicato che nel primo trimestre l'azienda dovrebbe registrare ancora conti deboli. In aggiunta poi Tenaris è strettamente legata all'andamento del petrolio e quindi oggi appunto è così spiegato il calo dei titoli. Ancora sui titoli, nonostante i dati Fiat tiene, è diminuita la quota a livello europeo, però perde mezzo punto percentuale. Attenzione su Enel, dopo il fronte, l'indiscrezione sul fronte del debito meno 1%, tra i migliori e peggiori, allora Deutsche Bank è il peggiore meno 6,5%, il migliore Zucchi più 13%, Poligrafica Editoriale più 11%, Stefanel sui risparmi più 7,20% e poi poco altro. Vorrei sapere che è successo a Piaggio nel giorno dell'assemblea. Sì, Piaggio si è comportata bene e anche sul finale ha mantenuto il rialzo del 2,4%. I titoli hanno beneficiato delle indicazioni fornite dal presidente Roberto Colaninno durante l'assemblea, parole secondo le quali nel primo trimestre l'azienda è andata molto bene, malgrado peraltro un mercato problematico delle moto. Grazie, buon fine settimana, Eleonora Micheli, Radio Cori sulle 24 ore, a tutti i tuoi colleghi. Oggi, tra l'altro, Mobiline ha depositato presso le autorità la richiesta di ammissione a quotazione in borsa, quindi vuole quotarsi in borsa nel segmento Star il gruppo di Vincenzo Norato. Il GR, poi vediamo di capire cosa sta succedendo in America con l'accusa di frode a Goldman Sachs. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia, in cui, cambiando anche la scaletta dei temi che avevamo annunciato, ci occupiamo di quello che sta succedendo a Wall Street, il crollo di Goldman Sachs dopo l'inchiesta avviata dalla SEC, che è la Consob americana, l'autorità di vigilanza sui mercati, accusa di frode per aver venduto alcuni prodotti finanziari legati ai mutui subprime, mutui fatti a persone che erano altamente a rischio, come poi si è visto, di non ripagarli. Ripeto, non è solo un caso di Goldman Sachs, anche se è lei che perde il 12%, Bank of America e Citigroup perdono il 4%, Morgan Stanley il 5%, in Europa Deutsche Bank ha perso il 7% e tutte le banche europee sono andate male. Nel caso italiano ricordiamo Unicredit meno 3,80%, Banco Popolare meno 3,61%, Intesa meno 3%, Popolare di Milano meno 3%. Il timore è che questa accusa di frode non si limiti a Goldman Sachs, visto che moltissime banche, oserei dire quasi tutte, di quelle coinvolte nella crisi finanziaria, nei prodotti tossici, avevano venduto a man bassa prodotti finanziari legati ai mutui subprime. In sostanza, impacchettando e vendendo il rischio che questi mutui non venissero ripagati, e poi si speculava sulla differenza tra quanto vendevi questo rischio, un po' complicato spiegarle, e si speculava sulle assicurazioni, sui CDS, cioè sulle assicurazioni che a sua volta chi comprava questo rischio contraeva nel caso il mutuo, colui che aveva contratto un mutuo non fosse in grado di ripagare il mutuo stesso. Allora si speculava, c'è un mercato di CDS che vale una volta e mezzo il PIL mondiale, se non ricordo male, legato proprio a questo tipo di speculazioni. Goldman Sachs è la stessa banca che, dopo aver ricevuto 10 miliardi di dollari di aiuti dal governo americano, ha pensato bene l'anno scorso di distribuire 16 miliardi di bonus, praticamente mezzo milione a testa per i vari manager e dipendenti, nonostante la stessa Goldman Sachs poi avesse anche dovuto operare dei licenziamenti. Non male anche Citigroup, che ha avuto 45 miliardi di aiuti, ha licenziato 38.000 persone, e anche Citigroup però si è distribuita dei bonus non male. E Bank of America, praticamente Bank of America ha distribuito, nonostante una perdita di 5 miliardi, e ha ricevuto Bank of America 45 miliardi di aiuti dal governo americano, ha distribuito praticamente solo negli ultimi tre mesi del 2009 una $400.000 a testa per i dipendenti, 4 miliardi e mezzo di bonus nel totale. Ma siamo in collegamento con l'America, c'è Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Mario, buonasera. Buonasera, eccoci Sebastiano. Allora, noi stiamo anche legando i bonus, tu sai che è un tema che ci sta molto a cuore, i bonus che prontamente già dal 2009 si sono distribuiti i manager di queste banche interessate. Allora, domanda su tutte. Prima, qual è l'accusa che viene mossa a Goldman Sachs? Ma soprattutto io vorrei capire, perché non sono proprio una verginella, neanche una demi-vierge, se questa è in qualche modo la controffensiva politica di Barack Obama, che, chiuso il capitolo sulla sanità, adesso vuole occuparsi di Wall Street. E Lloyd Blankfein ha risposto in maniera un po' arrogante nei giorni scorsi, lo stesso presidente è il numero uno di Goldman Sachs, e praticamente, insomma, se non c'è anche una dimensione politica in tutto questo, invece la SEC si è mossa, sì, completamente. Ma dunque, in maniera, guarda, autonoma. Sì, dunque Sebastiano, sì, è vero, c'è un piatto molto ricco nel contesto finanziario, ma sono dossier diversi gli uni dagli altri. Da una parte c'è il dossier della riforma istituzionale e finanziaria, su cui Barack Obama chiede regole piuttosto severe, rigide, demarcazioni che prima non esistevano, e su questo sappiamo che le banche resistono, in particolare Jamie Dimon di JP Morgan, e quello è un dossier politico che ha una sua dimensione molto specifica. Ma la notizia bomba, e sottolineo bomba, di oggi è questa incriminazione di Goldman Sachs per frode. Ecco, direi che i nodi sono venuti al pettine, non è una decisione politica e una decisione proprio così giuridica, perché l'accusa viene dalla Security Exchange Commission, e dunque una violazione delle leggi che tutelano il risparmiatore. Goldman Sachs naturalmente si difenderà con le unghie e coi denti. La storia è una storia conosciuta, ti dirò, ne abbiamo parlato noi stessi, ne abbiamo parlato anche sul giornale più volte. Riguarda questo meccanismo secondo cui Goldman Sachs a un certo punto nel 2007 aveva impacchettato una serie di prodotti finanziari, soprattutto legati al subprime, ma non solo al subprime, in dei veicoli di investimento che poi collocava sul mercato con il suo marchio di fabbrica. Dunque l'investitore comprava un prodotto Goldman Sachs, un prodotto Goldman Sachs che impacchettava diverse emissioni obbligazionarie che facevano capo dei mutui immobiliari. La media di rendimento era molto attraente, e quindi diciamo che chi acquistava questo prodotto pensava di acquistare una cosa relativamente sicura. Quello che non sapevano invece gli investitori era che nello stesso momento in cui vendeva con la mano destra questi pacchetti, con la mano sinistra, e quindi con la sua divisione di mercato, Goldman Sachs aveva già organizzato delle vendite short di quegli stessi prodotti, cioè scommetteva contro la solidità di questi investimenti. Naturalmente questo non è stato comunicato agli investitori, e così quando poi c'è stata la crisi e quei prodotti hanno cominciato a perdere soldi e poi a fallire, costando miliardi di dollari ai risparmiatori e agli investitori, Goldman Sachs, che aveva scommesso contro questo suo stesso prodotto che aveva venduto ai clienti, guadagnava miliardi di dollari. Ecco questo ricorda, allora, da un lato è chiaro che è inaccettabile che una banca, qualunque banca, anche se si chiama Goldman Sachs, no, vedo alcuni che giocano con la parte finale, comunque se vende un prodotto a un cliente e poi un secondo dopo o anche un secondo prima scommette che quel prodotto lì potrebbe fallire o potrebbe non tenere, sta compiendo un'operazione che ricorda molto quando certe banche d'affari da un lato consigliano come target price un titolo a 8 euro e poi con la mano destra vanno a vendere lo stesso titolo perché scommettono che scenderà sotto i 5 euro, cioè questi comportamenti strabici per essere buoni. Io vorrei capire, dopo le informazioni sul traffico però, se il rischio vero su cui si sta paralizzando la borsa, perché adesso l'America ha perso un punto e mezzo da quando è uscita la notizia, il Dow Jones, è che questa accusa venga allargata anche agli altri, cioè se fosse una cosa solo di Goldman Sachs già sarebbe pesante, se invece venisse allargata a tutte le banche d'affari in Europa, ripeto, Deutsche Bank ha perso il 7% oggi, sono cifre che non vedevamo per fortuna dall'ottobre-novembre del 2008, ecco, lì il rischio diventerebbe un'accusa all'intero sistema finanziario o perlomeno al sistema fatto da quelle banche. 349-238-6666 per gli sms, un minuto per il traffico. A chi dice, ricorda che Goldman Sachs ha restituito tutti i soldi avuti, sì è vero, ciò non toglie che se tu ricevi 10 miliardi per sopravvivere dal governo americano e poi te ne distribuisci 16 miliardi di bonus nello stesso anno, secondo me, diciamo così, puoi essere passibile di un giudizio negativo. Comunque, traffico e poi di nuovo in diretta. Allora, 18 minuti, ultima parte di Focus Economia in questo venerdì delle ceneri, non solo islandesi, ma a questo punto delle ceneri anche su Wall Street, delle ceneri che si abbattono su Goldman Sachs. Giustamente fanno notare alcuni ascoltatori che Goldman Sachs è vero che ha avuto solo 10 miliardi di aiuti, ma è stata salvata indirettamente anche dal salvataggio di AIG, il grandissimo gruppo assicurativo americano, per cui il governo americano ha tirato fuori 66 miliardi di aiuti e su cui Goldman Sachs era molto esposta, per cui attenzione a pensare il sistema è sistema. Comunque, Mario Platero, quanto è alto il rischio che l'accusa di frode venga applicata anche alle altre banche? Allora, sì, riprenderei appunto la questione, ecco, allora, e poi chiuderei anche il discorso dei dossier che tu accennavi, dei vari dossier. Numero uno, si pensa che ci siano altre incriminazioni ad altre banche, è possibile, ma il punto qui è che Goldman Sachs è la punta di diamante del sistema finanziario americano, il fatto che si trovi in questa situazione è molto imbarazzante, non è chiaro se la cosa andrà avanti e soprattutto se sarà provata e determinata la colpevolezza, che tipo di danno ci sarà per la banca in termini di multe, di rimborsi per i clienti, potrebbero essere miliardi e miliardi di dollari, ecco perché il titolo soffre come sta soffrendo, perché potrebbero evaporare i profitti che la banca è riuscita a accumulare nel corso dell'anno. E lo stesso naturalmente vale per le altre banche, c'è una combinazione, da una parte c'è l'effetto catena, cioè la paura per il sistema, se Goldman Sachs entra in difficoltà cosa succede con gli altri, è un sistema che sappiamo essere molto legato e quindi c'è il rischio di questa reazione, ma però ecco, anche altre banche potrebbero pagare. Sul discorso dei bonus, beh sì, tu hai ragione, da un punto di vista morale potrebbe esserci così una sensazione di disagio che una banca nel momento in cui l'economia è in crisi, ci sono 8 milioni di disoccupati, si elargisce quattrini. È in crisi, però, è in crisi anche per colpa loro. Sì, no, però è in crisi anche per colpa loro, è vero sul piano morale, ma dal punto di vista tecnico è vero quel che diceva il lettore, non soltanto Goldman Sachs ha rimborsato tutti i soldi con gli interessi e dunque il governo americano poi alla fine ci ha guadagnato su quello che ha prestato a Goldman Sachs, ma lo ha fatto proprio per essere libera di fare quello che voleva o credeva fosse meglio con i propri quattrini. Se gli azionisti di Goldman Sachs sono d'accordo che ci siano questi bonus, beh, è un problema loro. È chiaro che più soldi si danno ai dipendenti in stipendi e contributi, meno soldi incassano gli azionisti, ma a quel punto diventa più un problema interno e noi da osservatori. No, no, ci mancherebbe, era morale, più un giudizio poco da dire da un punto complessivo di vista giuridico legale. Sì, fermo restando che io sull'analisi invece di quanto abbiano rimborsato le banche d'affari americane non sono così d'accordo con te, perché tutto il deficit che l'America ha imbarcato in questi due anni arriva al 13-14% del PIL, è dovuto anche ai salvataggi, cioè quelle sono risorse che l'amministrazione Obama non ha potuto utilizzare per altri scopi e ha dovuto utilizzare per salvare il sistema finanziario. Quindi insomma ho un giudizio un po' diverso. Volevo darvi un aggiornamento su Goldman Sachs: sta perdendo il 13%, mentre Morgan Stanley 5,5%, Bank of America si è un po' ripresa, meno 3,8%. Mario Patero, ancora un minuto, ascolta con noi quanto ha dichiarato l'altro ieri a Venezia George Soros, che quanto a speculazione finanziaria, voglio dire, no, è uno di quelli che ne sanno di più al mondo, e recentemente accusato di aver scommesso anche sulla cacciata della Grecia dall'euro e ribassista sull'euro. Era a Venezia e ha spiegato il suo punto di vista sulla Grecia, il tasso al 5% nelle obbligazioni greche, su altri possibili casi greci in Europa e sul rischio di uno scenario a W, cioè dopo una piccola ripresa di nuovo una caduta, soprattutto per l'Europa. Ascoltiamolo in sequenza. I think it's regrettable that due to... Penso sia deplorevole che a causa di paletti sia politici che costituzionali i tedeschi abbiano insistito su un tasso di interesse del 5%. Dico questo perché il salvataggio sarebbe molto più efficace se il tasso fosse stato più basso. Quindi, mentre credo sia positivo che sia stato approntato un pacchetto di aiuti, penso anche che perda di efficacia proprio a causa del tasso di interesse a cui è legato. Credo che si rivelerà una scelta assolutamente controproducente. Penso che la Grecia sia un caso un po' speciale, perché i conti pubblici sono stati gestiti letteralmente molto male e ci sono state manomissioni. C'è molto spazio per correggere gli abusi e con la disciplina che è stata imposta alla Grecia, credo proprio che le correzioni saranno fatte. Ci sono altri problemi all'interno della zona euro. Prendiamo ad esempio la Spagna, un paese più grande della Grecia, che è stato ben amministrato e ha un livello di indebitamento tutto sommato abbastanza contenuto. Inoltre il sistema bancario è stato protetto abbastanza bene ed è ben regolato. Ma ci sono fattori di rischio come il mercato immobiliare e la disoccupazione, che è molto alta e vicina al 20%. Quindi, sia per i paletti ai conti pubblici, sia per la pressione esercitata dai mercati, Zapatero ha adottato un programma improntato all'austerità. Ed è triste constatare che è stato necessario ricorrere a queste misure. Penso che l'area euro debba trovare un meccanismo istituzionale che fornisca un sostegno aggiuntivo a paesi come la Spagna. Sì, esiste questo rischio, perché ci sono sempre maggiori preoccupazioni sui debiti sovrani e i mercati sono piuttosto sensibili verso quei paesi che presentano conti pubblici problematici. Inoltre, i mercati sono riluttanti a concedere credito a tassi di interesse accettabili, e questo a causa di severi paletti di bilancio che, se arrivano troppo presto, potrebbero portare ad una fase di recessione double dip. Spiego il perché. La ripresa è stata possibile grazie agli ingenti aiuti forniti al sistema finanziario e agli stimoli fiscali. E se queste misure venissero ritirate troppo presto, allora andremo incontro a una recessione double dip. If the stimulus is withdrawn too fast, you could have a double dip. Così George Soros, che ne sa qualcosa, dicevo, ha guadagnato 3 miliardi e 300 milioni di euro l'anno scorso grazie soprattutto al suo fondo il Quantum, e quindi complimenti veri. Mario Platero, ce lo chiedono insistentemente gli ascoltatori al 349-238-6666, ma veramente è solo una coincidenza che l'autorità americana di controllo parta con questo attacco? L'accusa per frode non si potrà risolvere semplicemente ripagando qualcosa, a mio avviso, perché se è un reato come la frode, insomma, vai anche dentro in America. Però veramente è un caso, perché è chiaro che, insomma, se io devo guardarla con un po' di malizia, Barack Obama non poteva avere miglior condizione che le banche accusate di frode per riformare il sistema finanziario di Wall Street. Ti chiedo di rispondermi in un minuto. Sì, direi di no, non vedo dietrologie, e la mentalità italiana quella di cercare troppe dietrologie in tutto questo. La SEC si muove per conto suo, l'inchiesta va avanti dall'anno scorso. A dicembre c'è stato un grosso esposé del New York Times su questa cosa, mm-hmm, e con tutta calma gli avvocati si sono mossi in avanti e sono arrivati a questa conclusione. Grazie anche per la sintesi. Mi sa che ci risentiremo, non solo attraverso il tuo programma, ma scusa, prego, se posso aggiungere solo una cosa, non sono d'accordo sul double dip di Soros. Credo che l'economia stia andando avanti abbastanza bene e che sul piano della finanza, sì, i mercati e gli operatori come lui si stanno preparando ad attaccare gli altri paesi, quindi dovremmo fare attenzione, ma questo è un altro capitolo. Le autorità dovrebbero reagire duramente contro questi hedge fund. Comunque, a questo punto sviluppa anche tu un hedge fund, Mario, perché magari... Se ti metti in società con me lo facciamo, sì, subito. Sì, va bene. E venerdì delle ceneri, grazie. Mario Pratero in collegamento con noi da New York. Vedremo se poi cosa ne dirà Soros. Da Sebastiano Barisoni veramente tutto per questa puntata e per questa settimana di Focus Economia. Grazie a Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione come ogni settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Non posso rispondere più ai messaggi sugli ordini professionali, ma ha ragione chi dice che i praticanti vengono pagati anche in altri mestieri e imparano anche lì. Ci risentiamo lunedì, buon fine settimana, ceneri permettendo. Radio 24, la passione si sente.